le strade, sotto gli scarponi, sventolano insegne, insieme ai tricolori, urla di sirene, labbeggiano i furgoni, largo a tutti quanti, largo alle legioni. Diritto di mangiare, diritto di mangiare, diritto di mangiare, diritto di mangiare. Ti controllano la posta, non pensarci, siamo in tanti. Non ti ferma la minaccia di finire come gli altri. Una la risposta, scrivere sulla testa, è la strada che ti chiama, non perderti la festa. Diritto di mangiare, diritto di mangiare, diritto di mangiare, diritto di mangiare. Diritto di mangiare, diritto di mangiare.